Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Venerdì 12 marzo, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutte per questa fine della settimana con Liberi Dentro e Duradio, ora in onda su Radio Città Fujiko e alle 10.30 su Teletricolore. Do il buongiorno sempre ai miei ospiti, Ilaria Voni del Poggeschi per il Carcere di Piazza Grande, buongiorno e bentornata. Buongiorno, grazie Caterina. E al nostro Ignazio De Francesco da Montesole, buongiorno a te Ignazio. Buongiorno a te, a tutte e a tutti e Ilaria. Allora, oggi con le notizie della cronaca bianca siamo in Emilia-Romagna e precisamente siamo a Castelfranco dell'Emilia, in provincia di Modena, dove la cooperativa sociale Giorni Nuovi ha avviato un progetto, pensate, un po' particolare per la produzione di ostie e particole usate nelle messe da alcuni parroci modenesi e bolognesi. L'iniziativa è partita nel 2015 in realtà, perché la cooperativa si costituisce in quegli anni lì, e 5 persone prestavano volontariato nel carcere modenese da una decina di anni. E spiega Francesco Pagano, il presidente di Giorni Nostri, che la spinta decisiva è stata proprio dalle istituzioni penitenziarie e anche dal nostro cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi, che hanno finanziato l'acquisto dei macchinari, i quali sono stati a loro volta donati al carcere e dalla cooperativa. L'ostificio comprende un'impastatrice, una macchina per le cialde, un umidificatore, una taglierina, quindi c'è tutto per produrre a partire dalle materie prime, che sono proprio semplici, la farina 00 e l'acqua, e di produrre per l'appunto le particole e le ostie. Le consegne sul territorio vengono effettuate dalla cooperativa con un furgone, e invece gli ordini arrivano anche da altre regioni, sempre attraverso i corrieri soliti sul territorio. Quindi è una bella iniziativa, sempre di lavoro, sempre però nella nostra regione Emilia-Romagna. E ora io, Ignazio, do la parola a te per le nostre notizie internazionali, perché oggi ci porti in Egitto. In Egitto, dovrei parlarne a lungo, ma mi devo concentrare per dire poi una cosa, ritornare anch'io a bomba verso il carcere, il mondo del carcere. Cioè è stata fatta una scoperta in Egitto importante, vicino ad Aswan, quindi nell'Alto Egitto, e sono state trovate una chiesa copta, un tempio tolemaico, un forte romano. Se voi sapete l'Egitto, io ci ho abitato, è un posto che basta dare un calcio a un sasso, viene fuori una cosa di 3.000 anni fa, cioè l'Egitto. Un museo a cielo aperto. È importante queste notizie anche dare ragione di questo, per dire a tutti quanti, a quelli che ci ascoltano dal Nord Africa e a noi stessi, che l'archeologia ci mostra che noi siamo un mosaico. In uno stesso posto noi troviamo un tempio pagano, il forte romano e una chiesa copta. E poi vicino c'è la moschea. Quindi fare archeologia è un po' come l'album delle foto di famiglia. Se noi distruggiamo le nostre foto di famiglia non sappiamo più da dove veniamo. E quindi l'archeologia, anche questa parte, so che tra chi ci ascolta in carcere ci sono degli archeologi che sono interessati a questo argomento, è importante per capire che il nostro mondo è fatto di tanti colori, è fatto di tante tessere. Questo per quanto riguarda l'Egitto. Adesso tornando in Emilia-Romagna, non posso concludere questa settimana, non possiamo concludere dedicata anche un po' alle figure femminili delle nostre case circondariali, con questa storia bellissima, quasi una fiaba, quando è accaduto che in uno dei nostri carceri sotto Natale tutti i cuochi erano in quarantena o ammalati o positivi, in quarantenati, e la cucina per diversi giorni è stata gestita dalla sezione femminile del carcere, che si sono trovate a fare da mangiare pranzo e cena per centinaia dei loro compagni reclusi come loro. Certo, l'hanno dovuto fare, gli è stato chiesto ovviamente dalla direzione di farlo, però le storie che ho sentito, le lettere che ho ricevuto sono commoventi, bisognerebbe fare un film, perché donne che si sono trovate in una cucina per 700 che magari avevano fino allora cucinato per 2 persone, e quindi è stata una grande avventura nel quale è emerso, da quello che ho sentito, anche un grande senso di maternità, di sorellanza, sentire di fare una cosa importante. Allora, noi non vogliamo fare il buonismo a Liberi Dentro perché non nascondiamo i grandi problemi del carcere, però queste cose ci dicono che il carcere non è solo la chiave, la carcere non è solo l'afflizione, è anche una lezione di grande solidarietà che viene per tutta la società. E allora, Caterina, se mi consenti la dedica, la dedica lo faccio veramente a tutte le donne, le signore che in questo momento sono in ascolto e che hanno partecipato a questa avventura della cucina per tutto il carcere. Vorrei dedicare l'ultimo pezzo della settimana di Amina Annabi, che la chiama Yanari Revolution, e io direi rivoluzione dell'amore. Ben ritrovati sempre sulle note della nostra Amina Annabi, la nostra cantante tunisina. E continuiamo con te, Ignazio, il nostro Galateo Arabo Internazionale, dove questa settimana, per tutta la settimana, abbiamo avuto a tema l'invidia, uno dei grandi vizi capitali. Abbiamo parlato di tanti suoi aspetti e oggi vorrei affrontare con te, a partire da come curarla, perché fa male a noi stessi prima di tutto. Esatto, questo è l'ultimo passo che aiuta a curarsi. Di solito uno quando gli vuoi dire guarda smetti di fumare, fumi 30 sigarette o 60 sigarette al giorno, guarda che ti viene il cancro ai polmoni, oppure mangi eccessivamente grasso, no, per dire guarda che ti viene il colesterolo, dice ma mi piace, oppure la cosa non posso fare a meno, però ti fa male. Allora sapere che la cosa ti fa male e ti aiuta a evitare certe cose, certe inclinazioni. E qua loro dicono, il sapiente arabo dice min al-wasail kadhalika li'tiqad al-jazim bi anna al-hasad la yadurru al-mahsud lidhalika sammaha ba'du ahli al-'ilm bil ma'siya al-mustahajjana. Cioè lui dice, vuole dire questo, sapere che l'invidia non colpisce l'invidiato, non gli fai niente all'invidiato, ma colpisce te stesso. È una cosa che ti si ritorce contro, perché ti avvelena la vita, appunto non sei più contento di quello che hai, godi se quello lì cade dalle scale, se gli succede qualcosa di male, se non gli danno il permesso per tornare a casa, se il processo gli va male. Ecco, quindi si gode per cose che sono stupide e che ti fanno male. e ci fanno male. Quindi anche sapere questa cosa, che facciamo male a noi stessi, con l'invidia ci aiuta a combatterla. E quindi mantenere uno sguardo sul nostro presente, sul nostro futuro, che è quello che facciamo anche con Ilaria, sempre con te, a chiudere questa settimana con noi di Liberi Dentro, chiedendoti quali sono i progetti, in particolare ora in atto al carcere della Dozza con il Poggeschi per il carcere, e quali prospettive future dopo questo anno terribile di pandemia, se avete pensato a progetti futuri, cose nuove. Sì, ovviamente abbiamo dovuto cambiare molto perché la nostra attività principale era dentro il carcere e da un anno a questa parte non possiamo più farla. E siamo riusciti a portare avanti, grazie anche a questo progetto di Eduradio, la redazione che continua insomma a pubblicare i suoi articoli su Bandiera Gialla e anche una rubrica appunto su Eduradio, grazie alla corrispondenza e che appunto i detenuti che fanno parte della redazione continuano a mantenere. E stiamo continuando anche con i gruppi Vangelo, sempre in questa modalità offline, e offline ma a distanza. E una cosa molto bella è che continuiamo a fare attività nelle scuole di sensibilizzazione rispetto ai temi giustizia e carcere, e di questo siamo contenti perché è una di quelle attività a cui teniamo molto, perché è sempre, no, quello di cui parlavamo a inizio settimana, il fatto di avvicinare i giovani a conoscere questo tipo di realtà, e è molto formativo per loro e anche per noi ovviamente, e quindi continuiamo a farlo nelle scuole al Minghetti per esempio a Bologna, ma anche in altre scuole della città. E in prospettiva contiamo di far partire un progetto appunto in collaborazione tra Poggeschi per il carcere e Piazza Grande rispetto a detenuti che stanno finendo di scontare la pena all'esterno, in un progetto di accoglienza, e quindi di poter fare delle attività con loro a supporto di un reinserimento nella vita al di fuori delle mura del carcere. E poi speriamo davvero tanto di poter rientrare presto, perché ci manca molto e sappiamo che insomma è un vuoto che chiedono sia colmato i detenuti. Se posso dire, Ilaria, questo che ci ascoltano, scrivete molto. Molti hanno un senso di abbandono, dicono ma tanti no, abbiamo perso i contatti con i volontari, così, quindi voi avete bisogno di lettere, ma anche le persone detenute hanno molto bisogno di ricevere lettere, quindi direi questo, scrivete molto, anche a persone che non conoscevate, questa cosa importante. Bene, e quindi scriviamoci tutti molto, facciamo questa cosa vicendevolmente, e noi continuiamo poi col proseguo di puntata con Maria Inglese. Ora ringrazio i miei ospiti per essere stati qui tutta questa settimana, e con voi dedichiamo la canzone di Ligabue. Allora, a questo punto abbiamo parlato di progetti, sono sempre i sogni a dare forma al mondo. Grazie, ci vediamo dopo. Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto mi rimane. Io non lo so che cosa ci può stare. Io non lo so chi c'è dall'altra parte, non lo so per certo. So che ogni nuvola è diversa. So che nessuna è come te. Io non lo so se è così sottile il filo che ci tiene. Io non lo so che cosa manca ancora. Io non lo so se sono dentro o fuori, se mi metto in pari. So che ogni lacrima è diversa. So che nessuna è come te. Sono sempre sogni a dare forma al mondo. Sono sempre sogni a fare la realtà. Rieccoci, bentornati su Liberi Dentro. Siamo sempre con la nostra Maria Inglese, dall'ASL di Parma, psichiatra. Buongiorno. Buongiorno. Maria, con te l'ultima volta abbiamo affrontato tre parole chiave che erano appunto la pena, il reato e la colpa. La colpa non siamo riusciti a, diciamo, sviscerarla completamente come parola, però siccome il tema di oggi vogliamo, insomma, abbiamo un pochino l'ambizione di entrare in quello che è un po' una riflessione sulla figura del padre, e allora partendo un po', riprendendo il filo dalla colpa, ci facciamo accompagnare da un autore. Te lo mostri lì con te. Esattamente, allora il libro sempre di Ivo Lizzola è però La paternità oggi. Paternità Oggi, che però appunto ha anche un capitolo dentro l'ultimo libro di Ivo Lizzola, Oltre la pena, del quale abbiamo già parlato, dove c'è proprio un capitolo dedicato a padri e detenuti, padre e detenuto. Quindi Certo. parleremo un po' a partire da questi due libri. E una cosa molto bella che dice l'autore di questi due libri, appunto Ivo Lizzola, è che ci sono due esperienze che sono molto diverse tra di loro, sono quelle della paternità e quelle della pena, della detenzione, che sono anche quelle che portano l'uomo diciamo, a una frattura. E vorrei capire quale sia questa frattura con te. Allora, questa frattura ha a che vedere con quello che dicevamo l'altra volta rispetto alla colpa, perché ci siamo proprio fermate nell'ultimo incontro con te su definire che cos'è una colpa. E la colpa ha a che vedere con un'azione, un gesto fatto o anche non fatto, omesso, assente. E chiaramente la paternità in carcere ha a che vedere con l'assenza, con la lontananza, con il non essere presente nella vita dei propri figli. Quindi io penso che la frattura, della quale anche un po' parla Ivo in questi suoi libri, sia quella della paternità interrotta, o paternità nella lontananza, e sia quella del rendere conto di quanto avviene per un padre detenuto, perché sei in carcere, no? Queste sono le domande difficili alle quali le persone che sono ristrette, detenute, sperano di non dover mai rispondere o comunque di poter rimandare il più possibile. Allora, Ivo dice una cosa molto bella rispetto alla paternità, e questo vale per la paternità in generale, non solo per la paternità ristretta, ed è quella che i padri ripuliscono il futuro per i loro figli. E questo vale in generale anche per gli adulti, perché lui dice che gli adulti hanno questo compito, ripulire il futuro per le nuove generazioni. E un'altra frase che Ivo dice qui, che affiancherei a questo, è che nella paternità c'è l'impegno di una consegna, di una promessa. Allora, io ho messo insieme queste due frasi, penso che in fondo i padri, e a maggior ragione i padri in carcere, consegnano il futuro. Perché anche per il padre detenuto c'è bisogno di pensarsi in una relazione futura, in qualche cosa che avviene dopo la pena. E questo in qualche modo, secondo te, ha anche a che fare con ciò di cui parla sempre l'autore quando dice: è vero, sono esperienze molto diverse, c'è una frattura, ma c'è anche una scelta. Esatto. Le domande difficili, no, che dicevo prima, cioè come poter rispondere a un figlio che ti chiede che cosa hai fatto, perché papà sei stato in carcere. Allora, queste domande prima o poi arrivano, ma esiste proprio questa cosa che tu sottolinei con la scelta, c'è una chiamata alla verità. Cioè, è molto, molto, molto stretto questo legame tra l'essere padri e il confrontarsi con una verità che va consegnata al proprio figlio, perché appunto è nel legame che si stabilisce tutto questo. E allora, come dici tu, si può stabilire anche una nuova scelta. Ivo dice una cosa molto bella nel libro, mettendo insieme le due parole in francese, che sono molto più evocative dell'italiano, che sono appunto nascita e conoscenza. Dice che la paternità in carcere ci chiama alla conascita e alla conoscenza, che in francese suonano allo stesso modo, connaissance, appunto, vuol dire essere richiamati a una nuova rinascita, e questo secondo me nella paternità in carcere è molto molto presente. Grazie, accompagniamo tutto questo con un brano musicale. Ok, allora ho scelto un brano che parla di paternità, Papa Tu È di Stromae. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés. E rieccoci sulle note di Stromae, Papà tu è. Maria, stiamo parlando di paternità, del ruolo del padre, non solo in generale, ma anche all'interno del carcere. E sempre questo autore di cui stiamo seguendo un po' le tracce anche dall'ultima volta, Ivo Lizzola, se vuoi farlo rivedere. Sì, allora. Sì, grazie. Parla anche del fatto che pur nella fragilità esistono padri che sono capaci di intessere delle relazioni molto più ricche, molto più prolifiche con i propri figli. E quali sono questi padri? Allora, mi aggancio anche a quello che ho detto prima, no? La connaissance come conoscenza e conascita. Allora, sono padri che rinascono in un certo senso in carcere, si rigenerano in carcere. Allora, l'esperienza che ho avuto, che anche Ivo racconta nel suo libro, è quella di vedere questi padri che riescono a rinascere in impegni nuovi, in impegni e anche consegne di futuro nuove che valgono sia per i propri figli, ma ad esempio per loro stessi, cioè ridiventano figli, se vogliamo. Immagino ad esempio i padri che si mettono a studiare proprio in carcere, e tante volte succede, a me è successo di appunto seguire padri detenuti che raccontavano il loro percorso di studi in parallelo con quello dei propri figli. Ecco, questa è un'esperienza dove c'è una frattura, ma dove c'è anche una rinascita, una possibilità di ritessere qualcosa e di consegnare il futuro reciprocamente, perché è anche il figlio produce un padre, ricordiamocelo, perché ogni paternità è un'adozione, non è come nella maternità dove c'è un qualcosa di estremamente naturale, ma è un po' la consegna al mondo di questo figlio. Nella paternità invece c'è sempre un processo di adozione, il padre deve adottare il proprio figlio simbolicamente, e questo vale secondo me per i figli. C'è questa frase bellissima che lui dice: sono padri che portano i segni della sconfitta o della fragilità e non disperano, non rinunciano. Quindi potremmo dire in qualche modo che comunque l'esperienza pur dolorosa della detenzione, della pena, è qualcosa che di cui non si dovrebbe comunque vergognare la persona, il padre in questo caso, aiuta a crescere in una relazione di dignità col proprio figlio o figlia. Esattamente, perché ci si riconosce nella ferita, ci si riconosce nella frattura, ci si riconosce nella anche incapacità. Ecco, forse la domanda alla quale questi padri detenuti tentano di dare risposta con le loro scelte, le loro rinascite, è quella di rispondere al proprio figlio che ti chiede implicitamente: ma tu ci sei ancora? Cioè, nell'assenza, nella lontananza, nell'interruzione di una paternità, oppure addirittura di una paternità che nasce in carcere, no? Ci sono anche esperienze di figli che nascono con i padri in carcere. Io penso che la domanda che i figli pongono, ai quali questi padri rispondono, è che sì, io ci sono ancora nonostante la pena, nonostante quello che è successo. E allora, proprio sulle basi un po' di quello che ci siamo dette ora, un brano musicale che vorrei lanciare è Father and Friend, quindi non son, ma friend, quindi amico, padre e amico, di Alan Clark. Grazie Maria, alla prossima. Grazie, ciao. ever sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along. No, nothing that I wanna say I haven't said before, but to use your words, you can never be too sure. See, even though I don't always show, I'm glad that you're around. Said I'm glad that you're around. So strange to hear and see that someone so different is a soul like me. You may have gone right, well, I would have gone left, but son, that's all right. I will always have your back. See, even though I don't always show, I'm proud that you're my son. Chiudiamo anche questa settimana di marzo con Maria Inglese, la nostra psichiatra da Parma. Il nostro appuntamento va a lunedì con Liberi Dentro, ma non dimenticatevi i nostri laboratori che da oggi pomeriggio, oggi che è venerdì, prevedono i cantieri meticci alle ore 17 su Teletricolore, domani sabato alle ore 17.30 la Cappellania col Vangelo che è vicino. Poi abbiamo il Teatro del Pratello, la domenica abbiamo Note Libere alle 10 sulla televisione e poi abbiamo il coordinamento Teatro Carcere. Non ci siamo dimenticati che non è andato in onda purtroppo ancora lo Chef al Fornelletto, che però rimetteremo in programmazione alle 10.30 di domenica. Buona giornata a tutti e noi ci rivediamo sempre qui su Liberi Dentro alle ore 9 di lunedì prossimo e alle ore 10.30 su Teletricolore. Buona giornata a tutti!